24, i gialli della storia. احنا النهارده بنبني بلدنا بناء قوي سليم جديد وفي نفس الوقت حينما نتجه الى الخلف. Stiamo costruendo il nostro paese su basi solide. Se torniamo al passato, è per cancellare le tracce di una colonizzazione dannosa e ritrovare la nostra dignità. Per questo motivo, oggi firmo, d'intesa con il governo, questa legge. Siamo arrivati nella piazza centrale di Alessandria alle 15. Nasser, vestito in abiti civili, estivi, iniziò a parlare mezz'ora dopo. Sapevamo tutti che si trattava di un grande evento e non siamo rimasti delusi. In nome della nazione! In nome della nazione proclamo! In qualità di Presidente della Repubblica, la nazionalizzazione della Compagnia Internazionale del Canale di Suez. Quando Nasser proclamò la nazionalizzazione del canale, la folla cominciò ad acclamarlo. Finalmente un egiziano aveva il coraggio di lanciare una sfida all'Occidente. La nazionalizzazione del canale di Suez è stata davvero una grande sfida all'Occidente da parte dell'Egitto. Il canale, fino a quel momento di proprietà inglese, diventa il terreno di battaglia di una sfida che ha fatto tremare il mondo e che lo ha portato alla soglia della Terza Guerra Mondiale. Una sfida impensabile da parte di un paese arabo come l'Egitto, fino a quel momento schiacciato da secoli di colonizzazione. Ma chi era il protagonista di questa grande sfida all'Occidente? Noi oggi a Mix 24 racconteremo questa storia con le testimonianze dei protagonisti e le voci dei giornalisti Jean Lacouture, Eric Rouleau e poi Abel Thomas del Ministero della Difesa francese e il maresciallo Fouzi, comandante delle forze armate egiziane. Egitto, 1956. La nazionalizzazione del canale di Suez rappresenta il culmine della politica di indipendenza condotta dal presidente Nasser. Quattro anni prima, a soli 38 anni, Nasser, colonnello dell'esercito, ha rovesciato con altri ufficiali il regime corrotto di Re Farouk. Nel 52 è ancora un personaggio di secondo piano, ma in due anni riesce ad estromettere il capo della giunta militare, il generale Naguib. Inizialmente sostenuto dai fratelli musulmani e dal partito comunista egiziano, Nasser a poco si allontana dai suoi alleati, privilegiando una politica di unità nazionale. In pochi mesi riesce ad imporsi, vuole incarnare il nuovo Egitto indipendente. In piena guerra fredda, questa politica di indipendenza e di unità nazionale gli vale la simpatia dell'America, che vede in lui un argine contro il comunismo in Medio Oriente. Ancora prima di Nehru in India e Tito in Jugoslavia, è Nasser a lanciare l'idea del neutralismo. Nasser è convinto che un paese del terzo mondo, come l'Egitto, non debba schierarsi con nessuno dei due blocchi. Il neutralismo nasce di lì. Bandung, Indonesia, 18 aprile 1955, la prima conferenza dei paesi non allineati. Nasser incontra i leader del terzo mondo, i precursori del processo di decolonizzazione. È la sua prima apparizione sulla scena internazionale, ma sa che l'indipendenza dell'Egitto passerà solo attraverso la lotta. Al di là del neutralismo, la conferenza di Bandung per Nasser è l'occasione per costruire nuove alleanze e trovare le armi di cui ha bisogno. Questo problema fu sollevato quasi casualmente durante un incontro diplomatico con il primo ministro cinese Chu Enlai. Fu Chu Enlai, infatti, a proporre che l'Egitto si rivolgesse all'est per ottenere le armi. E Nasser fece tesoro di questo consiglio, tant'è che chiese le armi all'Unione Sovietica. I nuovi armamenti e il nuovo esercito vengono fatti sfilare per le vie del Cairo. Non si tratta solo di una parata militare. Mettendo in mostra la nuova forza militare dell'Egitto, Nasser vuole accreditarsi come il leader del Medio Oriente, una regione in cui i paesi hanno mal digerito la creazione dello Stato di Israele. Sono mesi che gli incidenti con il nuovo Stato ebraico si moltiplicano. Per affermare la sua opposizione ad Israele, Nasser si reca personalmente nella striscia di Gaza, dove si addestrano i fedain. Dopo la sua visita, i raid degli attentati in territorio israeliano si moltiplicano. Poi Nasser decide anche di impedire l'accesso al Mar Rosso alle navi israeliane, suscitando grande irritazione a Tel Aviv. Oltre a Israele, l'altra priorità di Nasser è l'economia. Non trovando più sbocco sul mercato inglese, le piccole imprese egiziane che trattano il cotone sono costrette a chiudere. L'industria egiziana è inesistente. Tutto ciò che resta è un'agricoltura arretrata, insufficiente a sfamare una popolazione sempre più numerosa. La mancanza di acqua e impianti di irrigazione impedisce di coltivare gran parte della valle del Nilo. La rivoluzione promessa da Nasser si basa sulla riforma agraria, ma questa si rivela inattuabile per l'assenza di mezzi di sviluppo e finanziamenti. Dietro la questione di Suez c'è il problema della diga di Aswan. Sin da quando avevano preso il potere, nel 1953, gli ufficiali egiziani coltivavano il progetto di costruire una diga, una grande diga. Di piccole ne esistevano già lungo il Nilo, nella regione di Aswan, per dare un nuovo impulso all'agricoltura egiziana. Questi giovani ufficiali, forse un po' idealisti, erano molto appassionati al progetto e da anni cercavano i finanziamenti necessari per realizzare questa diga. Proposero diversi progetti, sia ai francesi che agli inglesi, ma solo gli americani, di fronte ai vari piani per la costruzione della diga, promisero un prestito ingente tramite la Banca Mondiale. Come sapete, gli Stati Uniti hanno deciso di non concedere il prestito che era allo studio da diverso tempo. L'America dunque non concederà quel prestito all'Egitto. Per il governo di Nasser è un fulmine a ciel sereno, ma soprattutto è un grosso, grossissimo problema per la fragile economia egiziana ed è anche uno schiaffo in faccia agli arabi. Sono rimasto sorpreso dall'atteggiamento offensivo di questo rifiuto. Non tanto dalle ragioni addotte, quanto dall'atteggiamento insultante con cui è stato espresso e dall'umiliazione che ha arrecato al nostro paese. Per gli Stati Uniti, infatti, il rifiuto è la diretta conseguenza della nostra situazione finanziaria e dello stato della nostra economia. Ben presto l'umiliazione viene sostituita dall'audacia. Nasser prende una decisione impensabile per un paese del terzo mondo. Il suo ambizioso programma di modernizzazione è condannato a fallimento. I 400 milioni di dollari promessi dagli americani non arriveranno. Ma Nasser sa dove trovare il denaro. La compagnia internazionale del canale di Suez ricava utili enormi, di cui versa all'Egitto solo il 7%. Il 23 luglio abbiamo deciso di nazionalizzare il canale di Suez. È il 1956. La notizia arriva al Parlamento francese durante un dibattito sulla crisi algerina. È come una bomba. Il ministro degli esteri francese, Christian Pinault, dichiara: dobbiamo spezzare Nasser. La nostra generazione, la generazione all'epoca al potere, era l'erede del fallimento di Monaco, quando avevamo creduto alle menzogne di Hitler. Nasser, non dimentichiamolo, era un dittatore militarista. Il suo disegno era di riunificare in un'unica nazione 400 milioni di arabi. A quel punto ci siamo detti: questo Nasser vuole fare come Hitler. Da Londra a Parigi la stampa è unanime. Tutti denunciano il colpo di mano di Nasser. Mentre francesi e inglesi valutano l'ipotesi di un intervento militare a Suez, Washington prende le cose con molta calma. Mancano pochi mesi alle elezioni e il presidente Eisenhower è ancora in vacanza. In uno scarno comunicato, il Dipartimento di Stato precisa: la situazione egiziana interessa esclusivamente le nazioni europee che fanno affidamento sul canale di Suez per il trasporto del petrolio. È dunque come semplice mediatore che il segretario di Stato americano Dulles si reca a Londra per proporre una conferenza internazionale tra tutti i paesi interessati. A Parigi, intanto, dove il governo ha appena posto la fiducia sul finanziamento delle spese militari, la questione del canale di Suez si innesta subito sul problema della rivolta in Algeria. Il ministro degli esteri francese Pinault è certo che una delle chiavi del problema algerino si trovi proprio al Cairo e che Nasser sostenga gli insorti. A marzo, Pino ha incontrato Nasser per chiedergli di sospendere gli aiuti agli algerini, ma il summit è stato un totale fallimento. Nasser, insomma, respinge la richiesta francese. Lui non vuole rompere con gli insorti nazionalisti algerini. A questo punto siamo al muro contro muro, ma un muro contro muro anche con Parigi. Non ho mai promesso al ministro Pinault di sospendere gli aiuti agli algerini. Ho confermato anzi che è nostra precisa responsabilità aiutare i nostri fratelli arabi ovunque si siano. Il ministro ha chiesto chiarimenti in merito all'addestramento e all'eventuale intervento di cittadini egiziani a fianco degli algerini. Gli ho risposto che nessun egiziano combatte a fianco degli algerini. Gli algerini combattono da soli, ma ho confermato che noi li stiamo addestrando. L'Egitto ha sicuramente sostenuto la rivoluzione, la ribellione algerina, organizzando campi di addestramento e fornendo aiuti militari. Ma si trattava di aiuti molto inferiori a quanto ha sempre sostenuto la Francia. Tutto è stato esagerato, ma questi aiuti ci sono stati. Algeria, estate 1956. A 2 anni dallo scoppio della rivolta, le azioni di polizia si trasformano in vera e propria repressione. Le truppe francesi presenti in Algeria, tra militari di carriera e di leva, arrivano a circa 400.000 unità. Proprio mentre Marocco e Tunisia ottengono l'indipendenza, il Parlamento francese conferisce al governo di Guimollet poteri speciali per risolvere la questione algerina. Per contrastare questa guerra fatta di attentati nelle città e imboscate sulle montagne, lo Stato Maggiore francese è convinto che sia necessario isolare i ribelli del Fronte Nazionale di Liberazione dalle loro basi in Egitto e chiudere la partita con il dittatore del Cairo. È un momento molto delicato, lo scontro militare sembra inevitabile. Contro l'Egitto, anzi, sarebbe meglio dire contro Nasser, si schierano l'Inghilterra, che si vede privata di un'importante fonte di reddito, e la Francia, che vede in Nasser un complice della rivolta algerina che si sta combattendo. Elaborammo con i paracadutisti un piano d'azione che prevedeva un'incursione di comando molto rapida. Dovevamo sbarcare e nel giro di 8 giorni spazzare via la resistenza ed eliminare Nasser. Raggiunto l'obiettivo, saremmo ripartiti subito per evitare problemi con gli arabi. A Toulon, la flotta del Mediterraneo è posta in stato di allerta. Le navi di scorta, le portaerei e gli incrociatori sono pronti a partire. Si sa già che la flotta inglese ha preso il largo per destinazione ignota. Francia ed Inghilterra dispiegano tutta la loro forza militare, in particolare quella navale. È essenziale dimostrare all'opinione pubblica, ma soprattutto all'Egitto, la loro determinazione a intervenire militarmente, qualora l'Egitto non receda dall'intento di nazionalizzare il canale. Perché non abbiamo fiducia in Nasser? La risposta è semplice. Guardate ciò che è accaduto in passato. Non abbiamo nulla contro l'Egitto e ancor meno contro il mondo arabo, ma solo contro il colonnello Nasser. Nasser ha detto di volere un nuovo spirito di collaborazione nelle relazioni anglo-egiziane. Per parte nostra eravamo ben disposti, ma invece di incontrarci con spirito costruttivo, il colonnello Nasser ha condotto una campagna di propaganda ingiuriosa contro il nostro paese. Si è dimostrato incapace di rispettare qualsiasi accordo. Per Nasser, negoziare con gli occidentali significa da un lato rinunciare alla propria sovranità, ma dall'altro, cosa più importante, tradire la fierezza che egli ha fatto rinascere nel mondo arabo. Il leader egiziano rifiuta perciò di partecipare alla conferenza internazionale di Londra. Il nuovo rifiuto di Nasser restringe dunque ancora gli spazi di manovra per la diplomazia. Londra e Parigi cominciano a pensare che a questo punto bisogna passare ai fatti con una vera e propria azione militare, ma forse c'è ancora un margine nella trattativa. La conferenza internazionale di Londra affronterà i problemi del canale di Suez. La conferenza è aperta dal primo ministro inglese Eden. Il rappresentante degli Stati Uniti ha posto le basi per una soluzione internazionale, a cui però l'Egitto si oppone. La maggioranza è contro una soluzione di forza, ma quale può essere una soluzione pratica alternativa? A Cipro, intanto, continua lo sbarco di truppe. Le truppe francesi, composte da 6.000 paracadutisti, dispongono già di numerosi accampamenti. La metà del contingente è già arrivata ed è pronta ad occuparli. Dal punto di vista diplomatico, la situazione è in stallo. Lasciando il Cairo, gli emissari della conferenza di Londra dichiarano: la situazione è molto grave. La stessa sensazione di gravità si registra a Parigi, in occasione della conferenza stampa del primo ministro. A seguito dell'incontro che il ministro degli esteri e io abbiamo avuto sulla questione di Suez con Sir Anthony Eden e il ministro degli esteri Selwyn Lloyd, abbiamo stilato insieme un rapporto completo sulle misure da prendere. Di Molle non farà cenno ai piani di intervento militare. Eisenhower, informato dai servizi segreti, sceglierà uno stile di comunicazione più diretto. Come sapete, il nostro paese non entrerà in guerra, mai. Almeno fin quando io svolgerò le mie funzioni o a meno che il Congresso non si riunisca e decida di dichiarare lo stato di guerra. L'America, insomma, si chiama fuori. Eisenhower di una guerra contro l'Egitto non ha nessuna intenzione di sentirne parlare. Stretta tra la fermezza di Nasser e la neutralità americana, Parigi e Londra vacillano. A questo punto non resta che giocare la carta dell'ONU. Alle Nazioni Unite ciascuno persegue il proprio obiettivo. I russi mirano a sostenere il loro nuovo alleato egiziano. Gli inglesi vogliono ottenere il sostegno americano per ristabilire la loro influenza nella regione. Ma gli americani sono più interessati alla pace che al canale. I francesi, per parte loro, approfittando che il sostegno egiziano alla ribellione algerina è ormai esplicito, sperano di eliminare definitivamente Nasser. Mohamed Fayek, all'epoca il responsabile egiziano per le questioni africane presso la presidenza della Repubblica, era Mohamed Fayek, che non era ancora ministro. In una conversazione di qualche giorno prima al Cairo, gli avevo chiesto: lei collabora con la presidenza e in Francia vi si accusa di fornire armi agli algerini. Io non ho mai creduto a questa storia, ma lei cosa risponde a queste accuse? Con mia grande sorpresa, Mohamed Fayek rispose che sono vere. Noi abbiamo fornito molte armi agli algerini. Quindi ha preso un pezzo di carta e ha tracciato il percorso delle navi che partivano di nascosto dall'Egitto e si dirigevano verso le coste algerine per scaricare le armi. Mi ha spiegato tutto. Dietro la diplomazia, le armi. Le armi russe per l'Egitto, le armi egiziane per i rivoluzionari algerini, le armi francesi per Israele. Shimon Peres, all'epoca direttore generale del Ministero della Difesa israeliano, è il responsabile dell'aviazione e delle divisioni corazzate. 22 ottobre 1956, a Sèvres, in un villino, si tiene un incontro segreto. Questa volta non si tratta di fornire armi, ma di mettere a punto un piano per un intervento militare congiunto di Israele, Francia e Inghilterra contro l'Egitto. Arrivammo in Francia nel tardo pomeriggio e fummo portati in un villino a Sèvres. Gli israeliani e i francesi erano già lì. Trovammo la delegazione israeliana guidata da Ben Gurion, accompagnato da Moshe Dayan e Shimon Peres, e la delegazione francese, con a capo il primo ministro Mollet, con il ministro degli esteri Christian Pinault e il ministro della difesa Mounouri. C'erano tre sale: la sala dove Selwyn Lloyd si incontrava con Guy Mollet e la sala dove Ben Gurion faceva della filosofia molto teorica, parlando di Platone, cosa che ci infastidiva parecchio, perché non si affrontavano mai le questioni vere. Ma questo era il metodo di Ben Gurion. Lui lasciava decantare le cose, ascoltando molto. Quello stesso 22 ottobre, i militari francesi dirottano l'aereo su cui si trovano i leader del Fronte di Liberazione Nazionale algerino. Ma neanche questo arresto serve ad allentare la tensione in Algeria e soprattutto non serve a risolvere la crisi di Suez. Il vero problema che noi stessi ponemmo era il ruolo degli inglesi. In primo luogo, visto che dovevamo intervenire insieme, avrebbero dovuto fornire quello che all'epoca mancava alla Francia, il suo punto debole sul piano militare, i bombardieri. Per la coalizione era indispensabile, visto che gli americani non sarebbero intervenuti, poter bombardare da subito gli aeroporti egiziani, dove si trovavano tutti i MiG sovietici. Il ministro degli esteri inglese, Selwyn Lloyd, non era in grado di decidere e a mezzanotte disse che doveva rientrare a Londra per consultare il primo ministro. Non l'abbiamo più visto. Se vogliamo, non ha avuto il coraggio di tornare. Lui era un politico e non voleva essere immischiato in questa operazione. Visto che Selwyn Lloyd non intende assumersi questa responsabilità, per ottenere l'aiuto inglese i francesi vanno direttamente a Londra. Pino si incontrò con il primo ministro Eden. Io non so cosa si siano detti, ma è probabile che nel colloquio con Pinot, Eden si sia impegnato a far intervenire l'aviazione inglese 36 ore dopo l'ultimatum agli egiziani e il ritiro degli israeliani. All'Inghilterra e alla Francia si unisce quindi Israele, che vuole ridimensionare il potente Stato egiziano, che rappresenta più di altri un pericolo per la sua autonomia e la sua sicurezza. Ma ascoltiamo il commento di Shimon Peres, che era allora direttore generale del Ministero della Difesa israeliano, sulle posizioni dello Stato ebraico, e Mordechai Baron, capo del gabinetto di Moshe Dayan, e poi Amin Edwedi, dello Stato Maggiore dell'Esercito egiziano. Quello che alla fine ha convinto Ben Gurion a ritirarsi è stato in primo luogo il fatto che l'Inghilterra avesse accettato di considerare Israele come partner e in secondo luogo che Israele potesse svolgere un proprio ruolo. Noi non partecipavamo a un'operazione anglo-francese, noi portavamo avanti la nostra operazione, che si sarebbe limitata alle necessità strategiche di Israele. Il protocollo segreto prevede due fasi. La prima in cui si garantisce il sostegno ad Israele per la distruzione del nuovo esercito egiziano e una seconda in cui Francia ed Inghilterra potranno riaffermare il controllo sulla regione. Una volta partiti gli inglesi, ci siamo sentiti un po' in famiglia. Qualcuno ha tirato fuori una bottiglia di champagne. E Ben Gurion, Dayan, Peres, io stesso, e poi i francesi Mollet, Christian Pinault, Bourges e Thomas, tutti insomma, abbiamo fatto un brindisi al successo dell'operazione. Peres fece un breve discorso. Disse che una nazione piccola come Israele, con solo 2 milioni di abitanti, circondata da 400 milioni di arabi, aveva un solo modo di proteggersi, con l'energia atomica, senza specificare se civile o militare. È allora che abbiamo dato il nostro consenso ad Israele per la produzione di energia atomica, anche se solo per uso civile. È la clausola non scritta degli accordi di Sèvres. La Francia aiuterà Israele a divenire una potenza nucleare. Dunque Israele ha ottenuto quello che voleva, un aiuto concreto per produrre energia nucleare sul proprio territorio, ma Tel Aviv, definendo il proprio ruolo al fianco degli inglesi e dei francesi, ottiene anche un secondo risultato, la distruzione dell'aviazione egiziana, che naturalmente pone un serio pericolo per la sua sicurezza. In questo accordo Israele ha un ruolo decisivo, deve provocare la scintilla iniziale per il conflitto. La parte ufficiale dell'accordo diventa subito operativa. Secondo l'accordo a tre firmato da Francia, Inghilterra ed Israele, la 10ª divisione paracadutisti francese lascia Algeri per congiungersi con le forze aeree e navali dislocate a Cipro, davanti alle coste egiziane. Altre truppe saranno inviate con un ponte aereo. Contemporaneamente gli israeliani lanciano l'operazione Kadesh. Le prime colonne di Tzahal varcano la frontiera egiziana del Sinai. Come ho detto, la prima fase doveva essere di minimo impatto e quindi gli obiettivi per la prima notte, ossia quella tra il 29 e il 30 ottobre, erano solo due. Il primo obiettivo era lasciare parte del battaglione sul passo Mitla, anzi, in realtà, ad est del Mitla. Il secondo era prendere posizione nel tratto centrale della strada per Ismailia. E questo per posizionarvi dei reparti che sarebbero intervenuti solo successivamente. Con la crisi internazionale nata dalla nazionalizzazione del canale di Suez da parte dell'Egitto, riprendiamo dopo la pubblicità. X24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Radio 24. Stiamo raccontando le evoluzioni della crisi tra l'Egitto e la Francia e l'Inghilterra, a cui si è unito anche Israele dopo la nazionalizzazione del canale di Suez voluta da Nasser. E dopo gli accordi di Sèvres, la coalizione vuole un primo intervento proprio di Israele. Il lancio dei paracadutisti sul passo Mitla è la prima fase del piano di Sèvres. Mitla si trova a meno di 50 km dal canale. Poiché i combattimenti tra israeliani ed egiziani pongono a rischio la zona sotto il loro controllo, francesi ed inglesi lanciano un ultimatum chiedendo l'immediato cessate il fuoco. È la seconda fase del piano. In caso di rifiuto, Parigi e Londra avranno la legittimità per intervenire militarmente e garantire la libera circolazione sul canale. È la terza fase. Per il momento, l'esercito israeliano prosegue la sua offensiva. Ad un certo punto, la reazione egiziana si fece particolarmente intensa, specie nel quadrante centrale. Intorno ad Abu Aghila era dispiegata un'intera brigata egiziana e per due o tre giorni si combatté in modo molto accanito. Abu Aghila era il punto di maggiore valore strategico. E infatti l'Egitto concentrò gran parte delle sue forze proprio in quel punto. Se Abu Aghila fosse caduta, gli israeliani sarebbero avanzati facilmente verso Ismailia. Francesi e inglesi lanciano l'ultimatum. Come previsto, Israele accetta. L'Egitto, invece, rifiuta. Per contrastare l'intervento anglo-francese e per timore che l'Unione Sovietica reagisca entrando in guerra al fianco dell'Egitto, gli Stati Uniti chiedono al Consiglio di sicurezza dell'ONU di adottare una risoluzione per l'immediata cessazione delle ostilità. Il Presidente met donc au voie l'ensemble du projet de résolution. The President therefore puts the resolution as a whole to the vote. Que ceux qui sont en faveur de son adoption lèvent la main. Grazie al loro diritto di veto, Parigi e Londra bloccano l'iniziativa. La risoluzione americana viene così respinta. Il piano di Sèvres procede come previsto, nonostante l'irritazione di Washington, che si rende conto di quanto sia pericolosa l'azione anglo-francese e quanto sia forte il rischio di una reazione sovietica, alla quale né Londra né Parigi sarebbero certo in grado di opporsi. Mentre il gioco dei veti incrociati blocca le Nazioni Unite, ormai per risolvere la crisi di Suez non c'è che una sola strada, quella della guerra. Gli inglesi hanno mantenuto il loro impegno. I bombardieri della RAF colpiscono gli aeroporti egiziani. Inchiodati al suolo, gli Iliushin di Nasser non sono più una minaccia per Israele. Nel Sinai, i bombardamenti aerei e l'azione delle colonne di blindati vincono la sacca di resistenza di Abu Aghila. La strada verso Ismailia sul canale di Suez è libera. Per proteggere il Cairo da un possibile attacco anglo-francese, Nasser decide allora di ritirare dal Sinai le truppe e gli armamenti ancora intatti. Gli Stati Uniti non sono mai stati consultati in alcun modo in nessuna fase delle operazioni, né siamo stati informati in anticipo. Noi riteniamo che tali azioni costituiscano un grave errore. Noi rifiutiamo l'impiego della forza quale strumento di risoluzione dei conflitti internazionali. Alla luce di tali circostanze, non vi sarà alcun intervento degli Stati Uniti nel conflitto in corso. Fino a questo momento si tratta ancora di un conflitto tra Egitto ed Israele. Francia ed Inghilterra, ufficialmente, non sono ancora entrate in guerra. Ma come previsto dagli accordi di Sèvres, gli aerei e i piloti che bombardano le basi aeree egiziane non sono più solo ed esclusivamente israeliani. Erano i miei uomini, gli uomini di Saint-Dizier, di Reims. Bisogna dire che era stato ordinato loro di togliersi qualsiasi segno di riconoscimento del grado. Hanno stracciato la loro carta d'identità e sono così diventati cittadini israeliani. Quando abbiamo dovuto affrontare l'attacco aereo congiunto di Gran Bretagna e Francia, oltre che di Israele, è stato chiaro che non avevamo più speranza. Il solo risultato di tale confronto sarebbe stato l'inevitabile sacrificio di tutta la nostra aviazione. Avevamo numerosi aerei sul confine. Perciò abbiamo deciso di inviarne alcuni in Arabia Saudita e in Sudan. A terra, l'esercito israeliano attraversa il Sinai. A nord raggiunge Gaza e disarma i fedayeen. Nel quadrante centrale, i blindati della settima brigata sfondano verso Ismailia. A sud, la brigata di Ariel Sharon scende verso il Mitla. La sera stessa, i tre fronti si uniscono sulla linea delle 10 miglia, a 16 chilometri dal canale di Suez. Insomma, la macchina militare ormai è in moto, ma gli Stati Uniti non si rassegnano. La situazione sembra una situazione senza ritorno, eppure continuano a far sentire la propria voce contro la guerra. Credo che nessun altro delegato abbia mai provato il disagio che avverto in questo momento nel parlare da questa tribuna. Quello di cui stiamo parlando è di importanza vitale. Gli Stati Uniti sono in totale disaccordo con tre paesi, malgrado i profondi legami di amicizia, ammirazione e rispetto che ci uniscono a loro. Due di loro sono nostri vecchi e fedeli alleati. Dalla tribuna dell'ONU, John Foster Dulles tenta ancora una volta di fermare la macchina da guerra. Ma il Sinai, ormai, è già in mano israeliana. Tutti gli obiettivi fissati da Ben Gurion per questa operazione Lampo sono stati raggiunti. Per Nasser è una disfatta totale. Nasser non immaginava di subire una sconfitta simile. Pensava di essere molto più forte grazie a tutte le armi moderne di cui disponeva, missili, aerei, carri armati. Non immaginava di essere sconfitto in modo così devastante. Le sorti del conflitto sembrano decise e a questo punto, seguendo gli accordi di Sèvres, l'Inghilterra e la Francia entrano ufficialmente in gioco, anche se la reazione dell'opinione pubblica dei due paesi è molto diversa. Ascoltiamo ancora il giornalista Jean Lacouture. Le truppe israeliane sono ormai in Egitto da alcuni giorni. La situazione è pericolosa per tutto il Medio Oriente e pone a rischio il libero accesso al canale da parte della Gran Bretagna e del mondo intero. Il governo inglese ha esaminato il problema al fine di definire una linea di condotta. Lo stesso hanno fatto i francesi. È una decisione molto grave, ma che ci appare inevitabile alla luce delle nostre più profonde convinzioni. Questa minaccia per la pace è come un incendio che divampa in una prateria. Dobbiamo agire e dobbiamo farlo rapidamente. È il secondo atto degli accordi di Sèvres. L'annuncio dell'inizio delle operazioni militari suscita proteste e indignazione. Se Anthony Eden è sincero quando avanza le sue proposte, e potrebbe esserlo, se è davvero sincero, allora è troppo stupido per fare il primo ministro. In Francia, dove la spedizione di Suez appare sempre più collegata alla guerra in Algeria, l'opinione pubblica sostiene in pieno il governo. Nella mia vita non mi sono mai sentito così in disaccordo con il mio paese, così parte di una piccolissima minoranza. La Francia era totalmente... Sì, totalmente a favore della spedizione in Egitto. Con i suoi discorsi nell'estate precedente, Nasser aveva umiliato la Francia. Il 95% dei francesi era favorevole all'azione militare. Con la storia della crisi del canale di Suez del 56 riprendiamo dopo la viabilità. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24. Stiamo raccontando la storia della crisi che si è originata dalla nazionalizzazione da parte dell'Egitto del canale di Suez e la reazione militare di Francia e Inghilterra, a cui si è unito anche Israele dopo gli accordi segreti di Sèvres. Cipro, 4 novembre 1956. Nel tardo pomeriggio i mezzi anfibi, le navi per il trasporto delle truppe e i mezzi da sbarco lasciano il porto di Limassol. Tre navi scortano il primo convoglio, che deve raggiungere al largo le navi inglesi partite da Malta. Già da diversi giorni Parigi e Londra hanno chiesto l'interdizione del traffico marittimo aereo in questa zona. Mosca ha protestato, ma per il momento Washington si è limitata solo a spostare la sesta flotta. La via è libera. Le due flotte si dirigono verso Port Said e Port Fouad. Le ricognizioni aeree rivelano che Nasser, nell'imminenza dello sbarco, ha fatto affondare sette navi egiziane per bloccare l'ingresso del canale. Seconda fase dell'operazione, le truppe aviotrasportate. All'alba del 5 novembre, 487 uomini al comando del colonnello Chateau Joubert salgono a bordo dei Nord Atlas. Dopo due ore di volo, raggiungono Port Said e i bacini della Compagnie des Eaux, uno degli obiettivi della missione, dal nome in codice Operazione Telescope. I 600 paracadutisti inglesi, partiti un quarto d'ora prima, si lanciano 10 km più a ovest, sul campo di aviazione di Gamil. Presi di mira dal fuoco antiaereo, 9 aerei della coalizione devono tornare alla base. Al suolo, i paracadutisti francesi avanzano tra la sabbia e il fango e fanno i primi prigionieri. Intanto arrivano anche i corsair della marina per annientare le sacche di resistenza dell'artiglieria egiziana. Alla fine della mattinata il ponte di Port Said e gli impianti idrici sono caduti. I paracadutisti inglesi controllano il campo d'aviazione di Gamil. Nel primo pomeriggio una seconda ondata di lanci su Port Fouad, sull'altro lato del canale, completa l'attacco. All'interno dell'impianto delle acque, gli elicotteri inglesi già evacuano i primi feriti verso le portaerei. Al Consiglio di sicurezza dell'ONU, il delegato sovietico Sobolev distribuisce la copia di una lettera durissima che il maresciallo Bulganin ha indirizzato lo stesso giorno a Guy Mollet, Anthony Eden e Ben Gurion. Bulganin scrive: il governo sovietico è deciso a ricorrere alla forza per respingere gli aggressori e ristabilire la pace in Medio Oriente. Il timore di Washington è diventato realtà. Hanno attaccato un alleato di Mosca, provocando una crisi che ora rischia di coinvolgere anche l'America. Ed in quei giorni la minaccia sovietica mette veramente paura. Il giorno prima, infatti, il 4 novembre del 56, i carri armati dell'Armata Rossa entrano per la seconda volta in pochi giorni a Budapest per stroncare nel sangue la rivolta ungherese. Il giorno dopo, gli inglesi e i francesi sbarcano a Suez. 6 novembre. Alle 5 del mattino, la flotta inglese e quella francese, partite due giorni prima da Malta e da Cipro, sono davanti alle coste egiziane. Gli inglesi a Port Said, i francesi a Port Fouad. Alle prime luci del giorno, lo sbarco ha inizio. L'artiglieria della marina prepara il terreno, neutralizzando cannoni, mortai e carri armati egiziani. Viene anche colpito un deposito di petrolio. 1-3 from 96 leader. I think a few of these lights would brighten up Port Said after all it is November the 5th. 96 leader, they make divisive suggestion, River. Roger. A proteggere lo sbarco, gli aerei da caccia, che bombardano i punti di maggiore resistenza. A Port Said, gli elicotteri inglesi sbarcano le truppe accanto alla statua di Ferdinand Lesseps. A Port Fouad, i paracadutisti del primo contingente iniziano a perlustrare le strade. ma l'avanzata degli inglesi viene rallentata dai tiratori appostati negli edifici e sui tetti. Mentre infuriano i combattimenti, a Londra il primo ministro inglese Sir Anthony Eden è stretto in una doppia offensiva. Da un lato il primo ministro indiano Nehru ed altri grandi leader minacciano di abbandonare il Commonwealth. Dall'altro, la sterlina viene fatta oggetto di una pesante speculazione sul mercato americano. Per evitare il crollo della valuta di Stato, Macmillan, cancelliere dello scacchiere, è costretto a rastrellare sul mercato milioni di sterline. A questa speculazione partecipa, in modo scoperto, anche la Banca Federale Americana. Con questa pressione, infatti, Eisenhower vuole costringere Eden a interrompere l'operazione militare. E il messaggio arriva. Poco prima dell'ora di pranzo, il premier inglese Eden telefona a Guimollet per chiedergli di sospendere l'operazione Telescope. Ma Guimollet ignora gli avvertimenti e cerca di guadagnare tempo. Sa che entro qualche ora al massimo il suo corpo di spedizione arriverà a Suez, l'obiettivo finale. A Port Said come a Port Fouad le armi tacciono. Sul terreno l'operazione Telescope è stata un successo. Nel pomeriggio il generale Beaufort, comandante della forza francese, si ricongiunge con il generale Massou per organizzare la fase successiva delle operazioni. Poco dopo la BBC annuncia la decisione del governo inglese. Questa è la BBC. Le notizie. Il governo britannico ha ordinato alle sue forze armate il cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di oggi. In attesa degli ordini di Parigi, il corpo di spedizione si avvia verso sud, in direzione di Suez. L'arrivo dei carri armati sarà preceduto da un lancio di paracadutisti, previsto per l'indomani su El Kantara. La spedizione di Suez si conclude sulla strada per Ismailia, ad El Kap, un villaggio lungo il canale a 35 km da Port Said. Su questa piccola strada, gli alleati ricevono l'ordine congiunto di sospendere le operazioni militari. Costretti dalle pressioni americane e sovietiche, francesi ed inglesi accettano di lasciare ai soldati dell'ONU le postazioni appena conquistate. Le truppe anglo-francesi protraggono per 2 mesi, fino al dicembre 1956, l'occupazione di Port Said e Port Fouad. Ma a Parigi si continua a credere che la partita sia ancora aperta. Nessuno, insomma, sembra aver compreso che Mosca non abbandonerà mai l'Egitto. Ancora a metà novembre, lo Stato Maggiore francese è impegnato ad elaborare nuovi piani di intervento. E allora qual è stato alla fine il risultato di questa guerra? Londra e Parigi escono sconfitte dalla crisi di Suez. L'Egitto ha ottenuto la sua rivincita nei confronti dell'Occidente, ha acquistato il controllo del canale di Suez e si è guadagnato il rispetto e l'ammirazione del mondo arabo, anche se la sua aviazione è stata distrutta. Israele così si avvia a diventare una potenza militare nella regione, ha accesso all'energia nucleare e il suo vicino, il più forte paese arabo della regione, è seriamente indebolito sul piano militare. Eppure neanche questa guerra basterà a garantire la pace in questa regione.